tempo di sport. Vada, di parlarci solo 5 minuti e di dirgli, anche se non c'era bisogno, che sicuramente è un giocatore importantissimo, è un giocatore a cui mi aspetto molto e che per giocare a calcio ci vogliono anche quelli bravi, diciamo fenomeni, bisogna che siano supportati da una condizione fisica buona, per non dire ottimale. No, volevo, ero curioso di buongiorno a tutti naturalmente, di sentire insieme a voi cosa sta dicendo in questo momento Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore del Milan, cui ieri hanno sottratto il microfono e il palcoscenico, come sapete bene. Flavio Suardi in redazione, Roberto Scaltritti in regia, il numero verde è il solito 800 24 00 24, il numero verde. È l'occasione, io credo, sulle parole di Allegri e su una notiziona come il contratto di Oddo che è stato prolungato fino a giugno 2012, è spalmato. L'occasione per parlare, a cominciare a parlare un po' del calcio che verrà, magari anche divertendoci, perché questa è la mia intenzione, con un altro personaggio che è diventato nostro amico nelle notti mondiali, Fabrizio Ferrari, avvocato, agente FIFA, procuratore. Ciao Fabrizio. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Sta parlando Allegri, ieri gli ha rubato il microfono, il palcoscenico, Ronaldinho a vita, il più grande di tutti i tempi, resterà con noi, lo voglio più avanti, ha il gol nel sangue, Allegri è un maestro ma io sono professore, la sapete quella del pappagallo, sto leggendo la prima pagina della Gazzetta dello Sport con questo fiorire di... Il nuovo allenatore del Milan, anche quello Silvio, vecchio. Anche quello vecchio, anche se c'era in panchina come ha ribadito ieri. Come ha ribadito ieri, lo scudetto lo avrebbe vinto facilmente. Tanto Allegri ha già detto che uscite presidenziali non c'è problema, tanto io faccio un altro lavoro. Pato è un ragazzo giovane di 20 anni, può migliorare molto, ha ottime qualità, deve crescere. Ronaldinho può rendersi pericoloso ovunque, ha talmente tanta qualità che deve fare la differenza. Queste alcune delle cose che sta dicendo Allegri. Sentiamolo ancora. Parte mia, prendere e rivoluzionare tutto in una squadra che l'anno scorso ha funzionato fino a 6 partite dalla fine, era in lotta per vincere lo scudetto, e l'anno scorso è stato fatto un buon lavoro da parte di Leonardo insieme a tutto il gruppo. È normale che io possa avere sicuramente idee diverse e cercherò di apportare dei diversivi di quelli che rispetto a quello dell'anno scorso. Tanto ha detto anche, a proposito della conferenza stampa di ieri, un po' imbarazzante, io ero a disposizione, nessuno mi ha fatto domande, dunque ha parlato soltanto Berlusconi. Come lo vedi, caro Fabrizio Ferrari, il Milan di quest'anno? Da uguale a quello dell'anno scorso. Quindi da vedo. Scudetto e Champions League, come dice il numero uno? No, non credo proprio. Credo che le altre squadre si siano rafforzate, abbiano trovato un equilibrio maggiore. L'Inter, infatti, non ha fatto ancora praticamente nulla, sta solo gestendo i propri campioni, cercando di migliorare facendo uno o due colpi. Credo che la Juventus abbia lavorato bene per fare una rosa più o meno più equilibrata, diciamo, rispetto a quella che aveva l'anno scorso, anche se onestamente non credo che sia una pretendente allo scudetto. È incompleta la Juventus. La Juventus è una buonissima squadra, ma non è una squadra di campioni. Cioè, secondo me, fra la Juventus e l'Inter ancora ci sono due gradini. Cosa servirebbe la Juventus? Dzeko, come dicono, prezzemolo Dzeko, l'erbavoglio Dzeko, che tutti lo vogliono e nessuno lo piglia. Beh, è un giocatore fortissimo. Però, come ho detto varie volte, secondo me Dzeko alla Juve non ci va, perché la Juve non fa la Champions League. Secondo me Dzeko vuole rimanere in un club che fa la Champions League. Infatti aveva accettato poi l'anno scorso il Milan, pur... insomma, in una rivoluzione, diciamo, di ingaggi al ribasso del Milan, però aveva accettato il Milan proprio perché il Milan è un club prestigioso che faceva la Champions League. Io starei attento al Bayern per Dzeko, perché poi alla fine lo vogliono tutti, ma lo prende una squadra tedesca. Sì, il Bayern che ha detto, tra l'altro, oggi è stato detto dai dirigenti del Bayern ciò che è abbastanza scontato, e cioè che Müller non è cedibile, che Van Gaal resta, eccetera eccetera, perché chi vuole vincere non smobilita, soprattutto quelli giovani, se li tiene. Allora, io ho avuto un bel contendere con gli ascoltatori, anche oggi vedrai, ne avrò. 800 24 00 24, vi aspetto qui. Perché ho detto molte volte che, insomma, Ronaldinho, l'accessione di Ronaldinho sarebbe il colpo migliore per il Milan in questo momento, perché libererebbe spazio salariale, naturalmente costa 16 milioni lordi l'anno al Milan Ronaldinho, che ne prende 8 netti, e perché io continuo a considerarlo un giocatore meraviglioso, ma a fine carriera, e a fine carriera già da un po', nonostante le statistiche, compresa quella degli assi dell'anno scorso, eccetera eccetera, quelli che dicono ma senza Ronaldinho il Milan non sarebbe arrivato nemmeno terzo. Beh, è anche vero che una statistica degli assist è valida, anche perché la palla passava sempre da sinistra, quindi prima o poi un assist lo faceva. Sì. Io dico che secondo me, se la politica del Milan, la strategia del Milan è quella di abbassare gli ingaggi, è chiaro che Ronaldinho deve andare via, perché ha un ingaggio troppo alto rispetto al valore effettivo in campo che ha il giocatore, nonostante sia stato un campionissimo, ma questo non vuol dire che il passato viene rinnegato. È stato un giocatore clamoroso, ma in questo momento non ha le capacità atletiche per reggere il campionato italiano. Basta. Diciamo anche ironico, e cerco di vedere sempre dalle cose il positivo. E poi il presidente, ho avuto il piacere e l'onore di starci a pranzo, se non mi sbaglio, il 23 di maggio, e l'ho rincontrato ieri e mi ha dato la conferma della persona che è. Quindi poi la cosa che mi piace del presidente è che è molto diretto. Questo è sempre Allegri, naturalmente. Guarda, un po' il numero 10 classico, te lo ricordi, Max Allegri da giocatore? Numero 10 in campo e fuori, di quelli che scappavano dalle finestre del ritiro, che si volatilizzavano a pochi giorni dalle nozze, no? Famosa sta storia. Infatti. Famosa sta storia, lo trovi giovanissimo sulla panchina del Milan. Io credo che lui abbia sfruttato bene il lavoro che aveva fatto Ballardini in quella squadra, e ottimizzando gli schemi che Ballardini gli aveva inculcato a quella squadra lì. E ha fatto bene, un buon allenatore, giovane, come dicono, il physique du roll, la nuova scommessa del Milan. Se sono brutti non li pigliano. Sì, l'ha detto anche ieri Berlusconi con gli Epes. Sì. E quindi insomma viene confermato dall'allenatore. Sì, ha perso Beckham, insomma dovevano pur rifarsi in qualche maniera, se no anche le signore avevano, signore milaniste avevano il loro da dire. Senti, invece Balotelli che andrà in Inghilterra, e su questo metterei la mano sul fuoco, non so se puoi confermare, dopo la fuga dei cervelli quella dei piedi d'oro. Purtroppo è un trend di cui si discuteva anche nel nostro ambiente lavorativo, che siamo diventati un paese che fa uscite. Una volta eravamo un paese dove i giocatori volevano venire a giocare, adesso siamo un paese da cui i giocatori vogliono scappare. Sì. E questo è piuttosto divertente, e meno male che lavoro anche all'estero, altrimenti sarei fregato, lasciamo stare e cambio lavoro. Beh, paese da esportazione, l'Olanda fa questa politica da anni, è arrivata alla finale dei mondiali, non è detto che sia necessariamente. Infatti guarda, normale. Noi non siamo abituati ad avere dei giocatori che in nazionale giochino titolari, che giocano in realtà in altri campionati. Questa è una roba assurda, che non riesco a capire, perché non è che se non giocano nel campionato italiano poi in nazionale non sono buoni. Ma no, certamente, più che altro c'è il discorso che i nostri spesso vanno all'estero, quei pochi che vanno all'estero fanno un buco nell'acqua, perché anche quei giovani è successo tantissime volte. Io mi ricordo un Maccarone al Middlesbrough venduto per tantissimi soldi dopo un'annata straordinaria, che è andato al Middlesbrough e non giocava mai e si trovava malissimo. Siamo culturalmente un po' scarsi, nel senso che non riusciamo ad adeguarci ad altre atmosfere, altri campionati, altri modi di vivere, altri tipi di allenamenti. Cioè, anche quei ragazzi che sono stati scippati con grande clamore da Lupoli a tutti gli altri, da squadre inglesi, poi alla fine avevano l'elastico alla schiena, sono tornati indietro. Non mi sembra che nessuno di loro fino adesso abbia sfondato. Sì, a parte Rossi a Manchester United, però come dicevamo un'eccezione, perché in realtà ne saranno scappati una quindicina? Non so, sei meglio di me. Più o meno. Fra Manchester, Arsenal, Chelsea e varie altre squadre. Lo stesso Pelé, che era andato via in un momento di fulgore in Olanda, ha trovato pochissimo spazio. Quindi credo che effettivamente noi proprio anche a memoria, il giocatore più forte che è andato all'estero è Zola. Sì, che comunque non era più verdissimo. No, assolutamente. Ma infatti, se noi ci ricordiamo di Zola, vuol dire che sono passati tanti anni. Anche troppi. Dunque, tra i moltissimi messaggi c'è chi mi vuol togliere il microfono, chi cita anche Aquilani tra quelli che sono andati all'estero e che non stanno combinando nulla, eletto flop dell'anno in Premier, chi torna sulla barzelletta del pappagallo, eccetera, eccetera. Intanto, caro Fabrizio Ferrari, al microfono, al telefono abbiamo l'anima della Gazzetta dello Sport, vice direttore e cui assegno oggi la maglia numero 10, quella di fantasista, perché mi piacerebbe sentirlo su alcuni temi. Franco Arturi, buongiorno. Grazie della presentazione rutilante. La vuoi il numero 10? Voi. Lo vuoi il numero 10? Prendo tutto, grazie. Senti, stavo parlando dei giovani che vanno all'estero, nostri, stiamo diventando un paese esportatore, tra poco se ne andrà anche Balotelli, stiamo diventando un paese esportatore, però i nostri giovani da esportazione, quelli che ci hanno scippato, quelli che sono andati via per scelta, all'estero hanno steccato, ci sarà una ragione in questo? Ma secondo me non ci sono grandi numeri per fare una statistica, sì. Non mi pare che Zola e Vialli, tanto per fare dei nomi, abbiano steccato. Penso che ci sia molta casualità negli esiti, neanche Di Canio mi pare che abbia fatto una brutta carriera, neanche Cudicini, ne comincio a citare diversi. Quando arriveremo a 50-100, allora potremo fare realisticamente una statistica. Ma arriveremo di questo passo a 50-100, cioè stiamo diventando un paese esportatore di giocatori? Ma l'Inghilterra è molto interessata, rovinando il suo calcio indigeno ai nostri quindicenni, lo è da alcuni anni. Non mi pare che lo stesso entusiasmo ci sia da parte del calcio tedesco, che ha già abbastanza naturalizzabili o giovani di altre nazionalità o etnie in casa, e nemmeno da parte della Spagna. Peraltro mi pare che il nostro paese, più che esportatore di talenti, i suoi talenti tenda a non farli nemmeno nascere, quindi non vedo il pericolo, ma da un fronte molto pessimistico piuttosto che ottimistico. Fabrizio Ferrari, da agente FIFA, cosa dici in questo discorso? No, trovo che sia tutto giusto quello che ha detto il direttore, soltanto che credo che effettivamente una tendenza ad andare a giocare fuori, soprattutto in Inghilterra, che è un campionato molto affascinante sia dal punto di vista mediatico che dal punto di vista spettacolare e anche dal punto di vista economico, ci sia, nel senso che molti giocatori, onestamente, anche me che sono un agente, mi chiedono se c'è la possibilità di andare a giocare in Inghilterra, cosa che magari 5-6 anni fa non succedeva. Adesso tramite i media si parla molto di più del calcio inglese, molto più di quello spagnolo, se vogliamo, e anche andare a giocare allo Stoke City, che magari 5-6 anni fa non sapevano nemmeno che club fosse, adesso può essere interessante per tutti i giocatori. Questione anche di appeal, tu dici. Assolutamente sì. Direttore, io con te volevo toccare anche un altro tema, fantasista, come ti ho detto, perché è una cosa che mi interessa, il tuo parere su una cosa che il calcio non c'entra. Contador, che fa il furbetto e poi si scusa. Ma le vicende legate alla strada del ciclismo sono davvero imperscrutabili. Noi in redazione abbiamo discusso a lungo degli episodi, di quell'episodio, si deve fermare, non si deve fermare, le scuse, non le scuse. Onestamente non siamo arrivati a una conclusione, c'è chi dice che la corsa è la corsa e comprende, deve comprendere purtroppo come la vita, degli episodi negativi dovuti puramente alla fortuna, c'è chi invece invoca un fair play che una volta c'era, adesso meno, ma poi i più anziani ricordano altri episodi tremendi del passato, per cui nemmeno questo sarebbe vero. Non credo che sia stato da parte sua un episodio di ipocrisia. Poi sì, quella catena è saltata, non è saltata perché è saltata, perché è stata usata male oppure per mero, così dire, casualità tecnica. Insomma, è un discorso un po' nel quale mi addentro senza trovare una risposta. Una risposta, ma io non sono così lontano dalla prima posizione che hai citato, cioè ci può stare anche questo nello sport professionistico, però non mi è piaciuto il fatto che abbia mentito dicendo non me ne sono accorto, quella è una bugia. Avesse detto: ragazzi, questo è lo sport, io voglio vincere, succede a un altro e mi attacca, non ho nulla da dire, il mio comportamento è questo, insomma. Però quelli che scansano un po' le responsabilità non mi piacciono tanto. Un altro personaggio invece, Valentino Rossi, direttore motomondiale, che rifiorisce all'improvviso con questo vecchietto zoppo, 5 milioni e mezzo di telespettatori l'anno prossimo. Rossi sulla rossa toglierà, dicevo ieri, anche i sensi di colpa agli italiani che dicono: beh, però devo tifare anche per la moto italiana, come faccio, Valentino oppure la Ducati? Sensi di colpa che vanno via e mi aspetto una stagione di motomondiale almeno mediaticamente da record. Ma che Dio ce lo conservi molto molto a lungo, Valentino Rossi, che è diventato negli anni sostanzialmente il numero uno dello sport italiano, mettendo d'accordo fra l'altro anche generazioni diverse, gusti diversi, perché molti che non avevano particolare inclinazione agli sport dei motori ne sono stati poi attratti, affascinati. Io l'aspetto fisiologico, nonostante me lo sia fatto spiegare, abbiamo cercato di comunicarlo ai lettori, ancora sto a domandarmi come sia possibile, tremo così a un punto di vista personale che in queste condizioni non gli accada nulla, e credo che questo processo di identificazione, diciamo così, primaria scatti un po' in tutti, questa ventata così di epica e di eroismo insomma riporta a una dimensione di sport dei motori anche di altra epoca. Sono veramente delle persone che è difficile inquadrare in una cosiddetta normalità, insomma, anche quando ci mettiamo nei nostri scooter o nelle nostre moto, il solo pensiero che quelli fanno quello mette i brividi. Sì, certo. Un'ultima domanda da parte mia. Totti a tutto tondo, difficile ormai distinguere tra spot e realtà, si diceva anche questo ieri nell'ascoltare alcune sue dichiarazioni, difficile distinguere tra spot e realtà anche nei contenuti, in tutta onestà, almeno per me. Ma io ho una simpatia per il personaggio, e mi sembra che fra le tante personalità di tipo sportivo che ogni tanto dicono la loro, le parole di Totti siano fra le più trasparenti e le più genuine. Questa è un'idea che mi sono fatto, non ho naturalmente la pretesa che sia la verità, e mi sembra che i secondi fini di Totti siano in realtà sul tavolo, molto trasparenti, non abbiano bisogno di nessuna decrittazione. Mi sembra un personaggio abbastanza vero, che ha naturalmente le sue cadute tremende di stile eccetera, ma che, voglio dire, poi alla fine credo dica quello che pensa. Sì, sì, sì. Il problema secondo me è che quelle parole di Totti molti le prendono eccessivamente sul serio. Secondo me il vero problema è questo, Fabrizio. È un po' il Reuccio di Roma, quindi sì, qualunque cosa dica il tifo lo sorregge, e ci sono migliaia, quasi milioni di persone che gli vanno dietro. Sì, ma poi il discorso che fa arrabbiare fino alle lacrime molti, in maniera secondo me anche abbastanza ingiustificata. Io sono d'accordo col direttore, a me Totti divertemi, a me piace così, non era il senso negativo o dispregiativo dire distinguere tra spot e realtà, un personaggio che a me continua a piacere nonostante tutto. Perdonami direttore, io avevo ancora una domanda, ma non è più al fantasista numero 10 vice direttore Gazzetta dello Sport, ma è alla, se mi permetti, al papà di una ragazza che ha fatto dello sport un mestiere arrivando al massimo livello. Volevo chiederti quanto costa arrivare lì? Beh, per loro intendo, per loro naturalmente, per loro in termini di sacrifici. Ringrazio per la notazione di carattere personale. Certamente ha dei prezzi, sì. Qualunque ragazza o ragazzo, perché questione di genere in questo caso non conta, ti racconterà che infinite serate in discoteca per loro sono proibite o passano in secondo piano, gli studi che comunque chi ha la testa sulle spalle continua forzatamente subiscono dei rallentamenti, alcune relazioni umane e sociali insomma passano in secondo piano. Però io, che frequento il mondo dello sport non soltanto naturalmente a livello personale ma anche professionale da tanto tempo, posso dire che tutti gli sportivi, in particolare quelli di successo, ti garantiscono che le sensazioni, le emozioni che dà il loro sport, soprattutto quando l'hanno frequentato da vincenti, non ha nessun paragone nel resto della vita. Parlo non soltanto di persone naturalmente infelici dopo, ma anche pienamente realizzate. È un po' come Neil Armstrong, il conquistatore della Luna. Da quel giorno non ha potuto fare nulla che fosse neanche lontanamente paragonabile, per quanto riguarda le emozioni provate, a quel famoso piccolo passo. Sì. Ecco, per gli sportivi questo è vero, l'ho verificato mille volte, e per questo vale e conta qualunque prezzo. Loro arrivano a sensazioni che noi comuni mortali non proveremo mai. Il mio dubbio è che i ragazzi italiani sono davvero disposti a pagare questo prezzo per arrivare sulla Luna? Io non ne sono così convinto, i ragazzi italiani di oggi. Ma io presi singolarmente, individualmente, io dico di sì. È il nostro che è un paese interamente in crisi, non è un paese per giovani purtroppo, spesso non è un paese per persone oneste, ahimè, è un paese con mille problemi economici che non ha trovato il modo di rialzare la testa o di alzare la testa. In questo contesto ovviamente soffrono anche i giovani, però non ne farei carico a loro. Poi vedo delle situazioni di impegno al massimo livello, per fortuna, tuttora, anche magari in discipline che sono lontane dai grandi palcoscenici e dalle grandi ribalte, e questo mi conforta. Grazie direttore, alla prossima, buon lavoro. Grazie a voi, buona giornata. Grazie Franco Arturi. Sempre con me Fabrizio Ferrari, procuratore, avvocato, agente FIFA. Fabrizio, tutto. Stavamo parlando di giovani. Tu sì. Insomma, rappresenti diversi giovani giocatori che vogliono emergere, che vogliono diventare professionisti, che vogliono diventare grandi. Cosa ne pensi? È corretto il loro atteggiamento nei confronti dello sport? Se ne parlava prima con Franco Arturi. Guarda, ne parlavamo anche un po' prima. Secondo me solo alcuni hanno il giusto atteggiamento verso quello che devono fare per raggiungere l'obiettivo di diventare professionisti ad altissimo livello. Perché purtroppo ormai il calciatore vive di questa immagine del giocatore che diventa ricco facilmente, che fa una bella vita, che si veste benissimo, che è molto bello, e si scordano la parte che serve per arrivare a quello. Perché per arrivare a quello ci sono tutti i sacrifici, il lavoro, il diventare giocatore importante, migliorare tecnicamente, e poi dopo, quando hai raggiunto questo, poi ti compri la macchina bella, sei bellissimo e ti vesti bene. Prima però devi giocare, altrimenti queste cose qui non le puoi fare giocando in C2 guadagnando 1100 euro. Sì, e non è necessariamente colpa degli stranieri, perché è una cosa che a me dà un po' fastidio, dire i giovani italiani non giocano per colpa degli stranieri. In parte sarà anche vero, in parte è vero che viviamo in un paese in cui a 26 anni sei ancora giovane e non ti fanno giocare quando a 26 anni non sei un giovane giocatore in nessun luogo del mondo. C'è questa mentalità distorta e questo è vero, però la mia sensazione è che questo del giocano gli stranieri, non giocano gli italiani sia un po' un alibi di comodo. Sono d'accordo, anche perché è vero che gli stranieri in alcuni casi sono, fra virgolette, comodi per le società perché pretendono un po' di meno, ma è sempre il solito discorso, perché il giocatore italiano si aspetta di riuscire molto più facilmente di uno straniero, quindi con un sacrificio minore, per cui il giocatore che nasce e cresce nell'Inter, nel Juventus, nel Milan, in una grande società, si aspetta di guadagnare subito molti soldi. Quando arriva uno straniero dice vabbè, vengo al Milan, vengo. Per che cosa? Quello che mi date, non è un problema. E se devo farmi il culo me lo faccio. Esatto. E probabilmente alla fine ha più possibilità di riuscire dell'italiano che invece si aspetta di riuscire più facilmente. Andrea da Modena, buongiorno. Buongiorno. Dunque, senta, io volevo intervenire per la Juve. Io sì. Prima vi ascoltavo e sentivo il discorso Ronaldinho, assist, pensavo alla Sampdoria di De Neri, quindi assist. Io penso la Juve... E alla parola assist io non trovo niente. Guardi, io delego la risposta a Fabrizio Ferrari. Grazie, molto gentile. No, beh, trovo che l'ascoltatore abbia ragione, nel senso che se serve qualcosa alla Juventus serve dal punto di vista della fantasia, serve probabilmente il giocatore che accende la squadra, perché come ho sempre detto, io rispetto tantissimo il lavoro che ha fatto Marotta e che fa Fabio Paratici, che secondo me sono molto competenti, ma trovo che il loro ricreare la Juventus sia fare una squadra molto operaia e poco di classe, sì, ecco, una questo bella mi versione manca. Una versione di lusso della Sampdoria. Esatto, però questo è Cassano. Un po' la mia sensazione. Però esatto. Manca Cassano, che non sembra sia Diego, perché alla voce assist dovrebbe rispondere. È anche vero che la Juventus, come molte squadre, ha questo problema di avere una rosa di 4-5 giocatori che non gli servono e che guadagnano tantissimi soldi, e finché non cedono questi non potranno prendere effettivamente quella stella che può dare quel plus a questa squadra. Andrea da Modena? Volevo dire un'ultima cosa per quanto riguarda i giovani. Dica. Nelle società, io sono spesso in mezzo ai settori giovanili, sì. Nelle società quello che mi sembra è che purtroppo le società italiane abbiano molta, forse troppa paura di fare esordire dei giovani o di fare cominciare a giocare i giovani. Quello sì. che spesso sento dire è ma non è pronto, ma dopo lo bruciamo, non è pronto, questo non è pronto, fra un po' va in pensione. Sì, no, ma questo è vero, però insomma questo è certamente vero, soprattutto in alcune società, soprattutto con alcuni allenatori, c'è paura. Lo stesso Albertazzi al Milan, che è stato pagato più di 1 milione di euro a 16 anni e poi alla fine non ha mai esordito, e hanno preferito Oddo centrale piuttosto questo che questo me lo ricordo, infatti vi ricordo che quel giorno me l'ha presi molto con Leonardo, no? Non so se fosse colpa di Leonardo, non so se probabilmente Leonardo non l'ha messo anche perché riteneva che Oddo fosse più forte, non lo so, io di livello, però noto anche che ad esempio notizia di oggi, che di ieri, di questi giorni insomma, che ad esempio Zigoni, giocatore che l'anno scorso era stato presentato come fiore all'occhiello della campagna acquisti del Milan, no, giovane fortissimo, cioè è andato in comproprietà al Genoa insieme a Strasser e Duamadi. Esatto. E allora com'è? Non lo so, onestamente non capisco nemmeno, cioè il Genoa sta facendo un lavoro strepitoso. Ma sono forti o non sono forti? Sono dei buoni giocatori. Sono dei buoni giocatori. Onestamente, probabilmente il problema è questo, che il Milan si pone sempre questa fantastica domanda, che è questa: è un giocatore da Milan? Ma adesso chi è un giocatore da Milan? Ma adesso cos'è il Milan? Esatto, cioè questo è il problema. Cioè, se tu mi dici qual è il giocatore da Milan, io ti dico, poi dopo te ne dico altri 20 che sono giocatori da Milan. Perfetto. Però non ho capito qual è il tipico giocatore da Milan. Lorenzo Belluno, buongiorno. Buongiorno. Beh, avete anticipato alcune cose. Io credo che alcuni giocatori possono essere del Milan piuttosto che della Juventus se vengono fatti perlomeno giocare a inizio campionato in partite più o meno delicate o meno, per capire se queste persone siano in grado, primo a livello di testa, di entrare a far parte di una rosa che probabilmente ha dei grandi campioni. Spesso però, come si dice, le squadre, i grossi club vogliono arrivare direttamente alla torta senza passare per traguardi minori, e quindi i grandi club italiani vogliono arrivare subito al dunque, e quindi non vogliono permettersi di fare certi errori giocando con dei giocatori di giovani, cosa che ha fatto brillantemente anche l'Arsenal, e che ha dimostrato ampiamente che con i giovani si può far strada. Secondo me la politica potrebbe essere questa, sfruttando anche il budget che adesso le squadre hanno notevolmente calato. Certamente, quindi, ma poi arriva Gagliani che le dice: l'Arsenal dei giovani quanto che Champions League ha vinto? Questa è naturalmente una risposta di comodo, per il resto ha ragione certamente non Gagliani ma il nostro ascoltatore. È sempre stato così, però da qualche parte bisognerà pur cominciare a cambiare. Esatto, secondo me è questa, è la paura del cambiamento che ci blocca. Cioè noi dovremmo prendere, io infatti ripeto, ormai fino allo sfinimento non capisco perché il Milan non prenda una posizione netta. Esatto. Su questa strategia. Cioè, appunto, c'è questo equivoco di fondo, no? Per cui devi costruire una squadra ipoteticamente a scudetto Champions League, anche se poi in realtà tutti sanno che non lo non è. Non lo vinci. Mentre con contestazioni, eccetera, eccetera, mentre sarebbe bello dire da parte della dirigenza: ok, adesso magari non vinciamo per i prossimi 3 anni, ma ci divertiamo con una squadra giovane, con una squadra che attacca sempre, con una squadra che difende sempre, con una squadra che volete voi. Però con una squadra diversa ci vorrebbe un'idea. Probabilmente Berlusconi non può permettersi questo, cioè di avere una squadra che sai già in partenza che non vince. Almeno nella forma deve avere una squadra che ipoteticamente può vincere. Io credo che se invece facesse un discorso di quell'altro tipo, tutti i tifosi milanisti sarebbero d'accordo con tutto quello che hanno detto. Sono d'accordissimo con te. No? Non vinciamo, ma divertiamoci 3-4 stagioni, poi vediamo. Saro Catania, buongiorno. Buongiorno, mi dispiace dover parlare ancora di Totti perché non penso che se lo meriti tanto. Comunque, per me giustificare Totti o dire che è simpatico, che non fa molto danno, è proprio sbagliato, perché Totti ha sputato in faccia un avversario a un mondiale, 2 mondiali fa, credo. Europeo. Vabbè. Sì. Ha gambizzato Balotelli. Poi non è una persona intellettualmente preparata, vabbè, non si richiede, però un numero 10 intelligente alla Rivera, insomma, non è che farebbe tanto male al calcio italiano, no. Ma insomma, partigliarlo come modo, poi non sempre gioca bene. No, vabbè, ma adesso non stiamo sempre, a volte Sarò, è molto però, bravo. Mi perdono, certo, mi perdoni, però stiamo mettendo insieme un po' tante cose. Totti è uno che dice quello che pensa, dice quello che pensa in maniera molto diretta, e quelli che dicono quello che pensano in Italia fanno, non sono mai ben visti, no, come sappiamo bene, attirano molte, molte critiche, comunque fanno discutere, questo un male non è. Certamente Totti sul campo, Fabrizio, correggimi se sbaglio, ha avuto sempre questo grande difetto di essere un po' bullo, di farsi giustizia da solo, Poteva evitare un paio di atteggiamenti che ha avuto, più di un paio forse, anche campo. Perché è un personaggio talmente comunque positivo come giocatore, che se avesse evitato questi atteggiamenti ne sarebbe uscito molto meglio. Esattamente un suo grave difetto. Sì, assolutamente. Probabilmente il più grave, perché in realtà, ripeto, sono d'accordo con te, cioè mi piace, schietto, poi ti può piacere o non piacere quello che dice, però non importa, lo dice con la massima serenità e va bene uguale. Sì, io sono di questa idea, però vedo anche che fa arrabbiare molti, ma in maniera anche un po' ingiustificata. Va bene, non importa, non devono essere tutti d'accordo. Mi piacciono i giocatori, gli allenatori che dicono quello che pensano anche a costo di sembrare scomodi. Per questo io apprezzavo Mourinho, lo apprezzerò sempre, pur non essendo interista, ve lo giuro. Avete paura a parlare male di Totti che Pippe? No, perché? Non lo so, bisogna, perché per far contento l'ascoltatore dovremmo parlare male. Vabbè, è scarso. Mario Trapani, buongiorno. Buongiorno, salve. Io ieri ho letto un po', ho visto anche in TV i resoconti della conferenza di Berlusconi, a parte il fatto che sembrava di essere più a Palazzo Chigi piuttosto che a Milanello, sono rimasto ancora una volta allibito dall'apprendere al presidente del Milan che questa è una squadra che può vincere tutto. Sì. Cioè io per curiosità sono andato così a vedere sul sito del Milan la composizione del centrocampo. Ora, meno male che ha giocato a calcio, sai, il centrocampo è il settore forse, come dire, il fulcro di una squadra, ci vogliono giocatori che sappiano coprire, che sappiano proporsi in avanti, andare in zona gol. Benissimo, sul sito del Milan, alla voce centrocampo, la categoria centrocampisti, ci sono 7 giocatori, di cui uno, Abate, l'anno scorso faceva il terzino con Leonardo, probabilmente continuerà in questa sua, diciamo, strada. Esce ancora Strasser, che invece è stato ceduto al Genoa, che era l'unico giovane degli anni 90. Esce Gattuso al centrocampo, che invece sembrerebbe in uscita un po' l'Inter, un po' Paesi Arabi, si era parlato anche del Volpo. Cioè di centrocampisti ne rimangono 4: Pirlo, Ambrosini, Sedos e Flamini. Ma fortissimi, però. Solo il Flamini è dell'84, mi pare. Certo. Hanno più di 30 anni. Ma dico, con 4 centrocampisti, ma dove vuole andare? Ma chi vogliono prendere in giro? No, vogliamo prendere in giro quelli che ci credono, probabilmente, perché se sono come lei è un po' difficile prendere in giro, no, Fabrizio? Concordo, direi che l'ascoltatore ha assolutamente ragione, nel senso che è chiaro che il centrocampo va assolutamente, se non cambiato, va aumentato di numero, devono esserci giocatori probabilmente più giovani, con più energie e che possono dare qualcosa in più. Se poi prendono De Rossi, Schweinsteiger e Ozil è un'altra storia, no? Beh, allora, certo. Allora, sì, però... allora va bene, allora vincono anche lo scudetto. Stiamo facendo della fantasia, però insomma, è anche un dato numerico reale questo. Però il problema qual è? È che il Milan sono 2 anni che non compra un giocatore reale. Yepes, Papastatopoulos e Amedia. No. No. Daniele, Padova, buongiorno. Buongiorno, salve dottore. Dica. Volevo dire un paio di cose. Una è che mi dispiace tantissimo per Oriali, per la fine anche che ha fatto con la società Inter, per quello che aveva dato in tanti anni. Anche a me, anche se insomma sarebbe bene anche qui fare chiarezza. Oriali ha detto mi hanno fatto fuori, sarebbe bene capire chi e perché, e sarebbe piacerebbe anche conoscere la voce dell'Inter sulla questione Oriali. Dica. Ecco, e dopo volevo dire un'altra cosa, un applauso però alla società, perché con gli acquisti che sta facendo anche nel settore giovanile, con Fossati, con Ranocchia, io credo che fra 5 anni l'Inter darà sicuramente il minimo della difesa, perché Bonucci, ex Inter, Fossati, Destro, vabbè, Ranocchia, Viviano, insomma l'Inter di giovani italiani ne sta sfornando, magari anche Poltoni, che purtroppo è anche stato sfortunato con un insieme di infortuni. Sì, poi ce ne saranno altri che non sono esattamente italiani, Crin, eccetera, eccetera, compagnia bella, ma insomma non è casuale questo, perché l'Inter è uno dei club che, correggimi se sbaglio, ha investito tantissimo sul settore giovanile negli ultimi anni, con Juventus, assolutamente sì, Genoa, probabilmente, Sampdoria. Anzi sicuramente è la squadra che ha investito più soldi nel settore giovanile, ed è anche la squadra che guadagna più soldi al settore giovanile, perché ogni anno 2-4 giocatori vengono ceduti in operazioni di mercato sia interno che esterno. E sulla storia di Oriali come la vedi, come la leggi? Non è che sia rimasto male, ma mi dispiace molto per la figura di Oriali, che è una figura di interista importante storicamente. Capisco che però purtroppo l'Inter è cambiata, non è più l'Inter di una volta, è un Inter molto più aziendale, più manageriale, che ha sposato il progetto di Benitez, che porta un'altra persona in panchina. Quindi non è niente di gravissimo, però dispiace per una figura che è sempre stata attaccata all'Inter come direttore sportivo, come consigliere tecnico, come team manager, come insomma qualcuno che stava sempre vicino all'allenatore e alla società, che purtroppo va via. È dovuto all'arrivo di Benitez. Credo proprio di sì. Adesso voglio parlare di un, stai attento, è di un mercato diverso. Sport e motori. Dunque, leggo oggi sulla Gazzetta che Briatore va alla Ferrari. E francamente mi è caduto il giornale dalle mani. Sorpresona, c'è Briatore alla Ferrari. Poi sono andato a leggere a pagina 20. Mario Poltroneri, buongiorno. Buongiorno, ciao Carlo. Briatore va alla Ferrari. Beh, il pezzo che tu citi dice molte cose. Sicuramente la visita di Briatore alla Ferrari, ricordando che un tempo erano molto, molto avversari, adesso invece hanno più o meno lo stesso indirizzo, e quindi sicuramente potranno aver parlato di come sostituire o affiancare Ecclestone, di come fare un campionato alternativo o altre cose del genere. La sostanza è che ci sono dei grandi movimenti per cercare di continuare a portare la Formula 1 sempre più avanti, non tanto sotto il profilo tecnologico quanto sotto il profilo finanziario. E in questa strada, e visto che parliamo di Gazzetta dello Sport, alla pagina accanto c'è il record di cadute, peggioriamo le gomme, riferito alle moto. Sì. Ricevo un comunicato della Bridgestone che dice... per la configurazione del tracciato di Hockenheim, dove si corre con la Formula 1 domenica, abbiamo selezionato la tipologia di pneumatici con mescola più morbida e più dura tra quelle quattro disponibili, cioè la 1 e la 4. Questa scelta dovrebbe rappresentare una sfida per tutti, anche le condizioni atmosferiche saranno un fattore da non sottovalutare. Se le temperature saranno elevate con la mescola super soft, sarà una grande sfida la gestione della stabilità e della durata. Se le temperature saranno fredde, portare alla temperatura ottimale la tipologia di pneumatici con mescola dura sarà particolarmente impegnativo per il team. Ora dimmi tu se dal punto di vista dello sportivo è logico fare una cosa del genere. Cioè, io parto dal presupposto, soprattutto quando si parte col serbatoio pieno, avere una gomma polivalente. Infatti la stessa marca, nella pagina della Gazzetta in cui si parla delle gomme per le moto, adotta una tecnica differente, cioè faremo delle gomme magari meno redditizie, ma che abbiano un campo di utilizzazione abbastanza ampio. Sì. Qui sennò si fanno delle gomme che se ci sono 31 gradi o 33 non funzionano più. Non vedo. Capisco che l'interesse di Montezemolo, di Briatore e di Ecclestone sia quello che la Formula 1 resti spettacolo e che la ricerca tecnologica ci sia e non ci sia. Certo, poi però vedi nella pagina che parla di questi problemi delle gomme tutta la serie delle fotine, delle cadute spaventose che ci sono state quest'anno, compresa quella di Rossi, di Depuinet, certo, di Melandri, eccetera, eccetera. E dunque due domande te le puoi anche fare. Fabrizio Ferrari, da procuratore, quanto vale l'operazione di Rossi alla Ducati? Non lo so, ma tantissimo, sia dal punto di vista mediatico che dal punto di vista proprio contrattuale puro dello sportivo. Sì. Non è male essere l'agente di Valentino Rossi, se tu credo. Se fossi l'agente di Valentino Rossi, questa storia della, insomma, del ritorno così repentino alle corse è un rischio certamente, no? Con un contratto nuovo già siglato è molto Io credo importante. Che sia stato molto la volontà di Valentino Rossi, credo, di sfidare continuamente, di trovare ancora una nuova sfida, perché certo. Credo che lui cerchi proprio questo adesso, dopo tante vittorie, sì. Qualcosa che lo stimoli veramente, e questa rincorsa impossibile, secondo me gli dà una voglia pazzesca. Ho capito, però Mario, io ho sentito anche dire che alla Ducati non sono così felici, non so se sia vero, di questo rischio grande che corre Valentino Rossi. Diciamo comunque, se parliamo del rischio in pista, diciamo che sempre oggi c'è lo scritto che De Pugnier, che si è rotto la gamba sinistra, sì. Nello stesso modo di Valentino, vuol tornare tra 26 giorni, quindi mi sembra la gara chi torna prima. Purtroppo, per fortuna, per loro i motociclisti hanno questo temperamento, questo desiderio, questa voglia di ritornare, di affermarsi, eccetera. Io penso che l'operazione Valentino a Ducati sia un'operazione sensazionale, attesa da anni, quasi come quando si aspettava Valentino sulla Formula 1 Ferrari, e va sulla Ferrari delle due ruote, chiamiamolo. Certo, non è un passaggio facile, perché la Ducati è comunque una moto sostanzialmente diversa da quella che ha guidato Valentino fino adesso, quindi si tratta di vedere quanto lui riuscirà a adattarsela. Io ritengo, siccome lui è eccezionalmente bravo, che farà delle ottime corse. Grazie Mario, sentiamo nei prossimi giorni. A presto, grazie a Mario Poltronieri. Io invece, prima di chiudere il programma, ancora un paio di minuti, voglio togliermi un'altra curiosità con te, Fabrizio, che ho buttato lì ieri, che era l'operazione Cavani al Napoli. Ora mi domando, il Napoli fa collezione di queste superstar, poi non sono effettivamente superstar, però grandi giocatori di alto livello e di pari status anche. Lì davanti, Quagliarella, Cavani, Lavezzi, a me sembrano tre giocatori, uno replica molto dell'altro. Molto simili, vero? Ma sia come status che come capacità tecniche, che come tre stelline lì davanti, ma sì. Perché? Guarda, io credo forse non mi sbaglio, che l'idea del Napoli era quella di sostituire Quagliarella per un'eventuale partenza inizialmente, quindi sì. Mettere Cavani e quindi mettere un giocatore più giovane fuori Quagliarella dentro Cavani, sì. E poi di prendere una prima punta più importante che potesse sostituire Dennis con una maggiore qualità sostanzialmente. Ora invece si trovano bloccati in questa situazione e devo dire la verità, non invidio per niente Mazzarri, che dovrà inventarsi un sistema di gioco diverso, perché o decideranno di prendere una prima punta importante, a quel punto lì però uno dei tre sta fuori. Sì, se non due, certo. Perché poi dopo ti ricordo che Hamsik ha giocato anche davanti, sì. Quindi diventa poi complicato gestire. Sembra un mosaico un po' difficile, un po' troppo difficile. È un po' complicato, veramente, ripeto, Mazzarri avrà da lavorare e ripeto, io sono convinto che il Napoli non abbia concluso il mercato. Senti, e sull'altro fronte il Palermo che cede Cavani è un segno di, non ti dico di ridimensionamento, ma di, non so, poca voglia di crescere ulteriormente, oppure no? Strategia sempre? No, secondo me è sempre strategia. Io credo che Cavani avesse deciso di andare via a gennaio, dopo sì. Vari incidenti, problemi con tifoserie, insomma, che ci fossero stati. E sono convinto che il Palermo stia lavorando molto bene sui giovani, tant'è che hanno probabilmente il miglior giovane che c'è in Serie A ed è un'eccezione rispetto a quello che dicevamo prima, perché hanno Hernandez, che credo abbia adesso 21 anni. Sì, Hernandez probabilmente sarà la prossima cosa grande del Palermo. Sì, finalmente dei giocatori giovani, peccato che non sia italiano, ma ci accontentiamo. Aspettiamo di vedere una bella Hernandez italiana. Speriamo che Destro esploda, che Zigoni esploda, che qualche altro giocatore. Speriamo che abbiano voglia di arrivare all'esplosione, questo sì. Grazie Fabrizio, torna tra quando vuoi. Grazie Fabrizio Ferrari, noi chiudiamo qui, torniamo domani dalle 2 alle 3, Giorgio De Luca in redazione, insieme a Flavio Suardi, Roberto Scaltritti in regia, ci sentiamo domani.